Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Ciao Drago. Ciao, oggi ciao. Parliamo dell'annoso problema della rubrica di Repubblica, le 10 bugie di Berlusconi a cura del bambino D'Avanzo. Cioè, è l'annoso problema delle bugie di Berlusconi. Sì, però è anche quello della persistenza delle 10 bugie sulle pagine di Repubblica. No. Cioè, angosciato ormai da questa presenza ossessionante, ho googlato un po' in cerca di uno... In cerca di un'opinione seria, di una pedagogista, sulla tendenza a dire bugie nei bambini. Sì. Così ho trovato questa classificazione dei tipi di bugia secondo una pedagogista del forum Pianeta Mamma. Sono 8 tipi di bugie. Ecco, adesso ce le leggiamo tutte. Tutte. Allora io ti suono l'ukulele, così diventa meno noioso. Sì. Allora. Ci sono le bugie generose, che sono quelle che i bambini dicono per non causare dolore agli altri. Le bugie di cortesia, cioè non si dice ciò che si pensa in determinate situazioni. Sì. Poi bugie per coprire gli altri, usate per lealtà verso amici e compagni. Poi bugie per timore, per evitare figuracce. Certo. Bugie per scherzo, usate per giocare. Bugie vantaggiose, per ottenere qualcosa o per evitare una punizione. Bugie per prestigio, per apparire più interessanti agli occhi degli altri. Poi, infine, la bugia per omissione, che è quella che si dice, che non, cioè, non si dice qualcosa e quindi è sempre una bugia. Ora, quindi? Bene, quindi, avendo scoperto quali sono i tipi di bugie che dicono i bambini, bisogna capire le 10 bugie di D'Avanzo. No, di Berlusconi. Beh, dai, bugie. Ormai sono sinonimi, no? Sì, D'Avanzo giusto, e Berlusconi. Giusto, ecco, giusto. Cerchiamo di capire che tipo di bugie dice Berlusconi. Ecco. Andiamo in ordine, cioè la prima bugia. Allora, faccio Berlusconi l'ukulele dice, anche qua, va bene. La prima bugia, secondo D'Avanzo, è che Berlusconi ha detto: non ho minacciato nessuno alla questura. Questa è una bugia, probabilmente per timore, per evitare figuracce. Okay. Non ho fatto sesso con Ruby. Questa è di cortesia. È di cortesia, assolutamente. Anche Ruby mi scagiona. Una bugia, di cortesia. Sì, forse. Ma... è la 28ª persecuzione giudiziaria che ho. Questa è di prestigio. Sì, mi spiano dal gennaio 2010. Anche questa. Hanno violato la mia casa. Direi che questa è per timore, per evitare figura. Forse. Non lo so, non, generosa. Omissione. Non si sa. Milano è incompetente, forse per via delle elezioni comunali. Non ho quindi capito. Prestigio. Sì. 150 poliziotti contro 10 ragazze, le mie amiche sono state maltrattate. Bugia per coprire gli altri. Sì. E non ho pagato mai una donna. Questa è una bugia. Questo è cortesia. E non mi devo vergognare? Questa è una balla. Asilo nido. Allora qui noi dobbiamo intenderci. Io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare asilo nido allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. Siamo d'accordo? Bisogna far così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33. Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. Comunque, secondo gli esperti, raccontare bugie è normalissimo da bambini, quindi il premier ha ancora tempo per imparare che la bugia porta con sé un prezzo a volte troppo alto da pagare, come la perdita della fiducia da parte degli altri. Vabbè, no? In effetti le lezioni... Imparerà e capirà che i danni creati dalle bugie superano i loro presunti benefici. Di conseguenza, poi l'istinto di raccontare balle diminuirà e così anche il povero bambino D'Avanzo potrà prendersi finalmente un po' di meritate ferie. Ma dove va in ferie D'Avanzo? Non lo so, io per spurgare tutta sta incazzatura che andrà in qualche isola lontana tipo Aruba. No, attento, D'Avanzo attento, perché io conosco uno che ha trovato un pacchetto tutto compreso per una settimana proprio ad Aruba. E poi non era Aruba, capito? L'isola, no, era Aruba, ma non era l'isola. E cos'era? Era il provider. Ma in che senso? Ma sì, quello di benvenuti in Aruba. E come ha fatto la vacanza lì? Sì, ha fatto la vacanza lì, chiuso nel cavò dei server di Aruba. Ma come? Ad Arezzo. Sai ad Arezzo, no? Sì. È andato tutto in fiamme. Infatti, ma lui era lì quando è andato tutto in fiamme. Certo, lui ha cercato di accendere il falò. Nel cavò. E cosa vuoi che ti dica? Lì sono nel cavò con l'aria condizionata, perché i server scaldano, devono raffreddare, avrà avuto freddo e ha scaldato l'ambiente con il falò, la chitarra, capito? Lucio Battisti, ma la canzone sulla spiaggia. Almeno lui sta bene adesso? Lui purtroppo... lui tutto bene, un po' di danni da pagare, però tutto bene, cioè milioni di euro. Come? Per una vacanza già che mi hanno fregato. Vabbè, ma anche l'isola. Tu fai il falò in mezzo ai server, Lucio Battisti. Cappa, che pace i corridoi dell'asilo quando i bambini sono tutti impegnati nelle aule, le porte delle aule sono chiuse e niente, nessuno disturba la quiete. Voi due! Cosa c'è adesso? Bambino Alberto! Ma cosa ci fa in corridoio? C'è la lezione adesso? Perché non sei in aula? Io sono esonerato dalla religione. Ma come esonerato? Sei esonerato dall'ora di religione all'asilo. In un asilo di suore. Vabbè, scusate, non vi sembrava strano che i miei genitori comunisti mi mandassero in un asilo di suore? Sì. Che poi adesso è scoppiato quel caso sui giornali, no? Quale caso? Quella lì, quella del parroco di Genova, Don Seppia. Brutta storia, eh? Meglio che voi bambini di storie così non ne sappiate niente, però. Proprio non per so, niente. Mi stupisco. Perché ho subito che tu... una full immersion nella storia di Don Seppia. Ma come una full immersion? Perché a casa mia non si parla d'altro. Ma dai. I miei genitori a tavola, in salotto, tutti lì un Don Seppia di qua e Don Seppia di là. No, vabbè, ma è un'ossessione. Sono ossessionati i miei genitori. Abbiamo capito, però non è che in questo asilo c'è un Don Seppia, quindi cosa c'entra il fatto di cronaca orrendo di Genova? Fatto. Con la tua lezione di religione all'asilo, che poi c'è Gino il bidello, ma c'è Suor Ventura. Vabbè, scusate, si tratta di chiesa, no? Sì. Allora, i miei genitori ragionano così, no? Sì, ma non ha senso. Cosa manichea, la manichea, Ma non lo so. Come diceva Vasco, no? Cioè? Voglio trovare un senso a questa storia. Vabbè. Anche se questa storia un senso non ce l'ha. È più difficile, sì. Il senso non ce l'ha, infatti, la storia di Don Seppia, direi proprio. Non tanto questa qui dei suoi genitori che non gli lasciano fare religione. Proprio tutta la storia che non ha senso. Che poi sapete che la seppia coi piselli è un piatto forte della cucina genovese. Vabbè, ma vedi che tipo. Cosa c'entrano adesso i piselli? Dai, piselli. Si parlava di seppia, di Don Seppia. Vabbè, ma io ho fame, no? Anche Tito. Comunque, non è adesso il momento di mangiare, né per te né per Tito. Dai, dai, tutti i tuoi amichetti stanno seguendo la lezione di religione con Suor Dentona. Tu pensi a mangiare. Ma poi Suor Dentona dice sempre le stesse cose. Cioè? Che Gesù si è sacrificato per gli uomini, che ha salvato l'umanità, e che la mamma di Gesù è stata assunta al cielo. Che poi non ho ancora capito se le fanno un contratto a tempo determinato o a progetto. Ma dai, ma Tito, vabbè, ma cosa dici? Quante scemenze, però mi tocca sentire. Io ho seguito le lezioni fino alla settimana scorsa. Sì, e parlavano di contratto a progetto, tempo determinato, per la Madonna. Non prendetemi per uno che sia completamente digiuno dalla religione. Sono un mucchio di cose. Tipo, bambino Alberto, parlami della Palestina. Sì. E allora, la Palestina è una terra divisa in tre, c'era la Giudea, la Galilea e la Samaria. Sì, va. In Giudea c'erano i Giudei, in Galilea i Galilei, in Samaria i Samaritani. Uno dei quali, questi benedetti Samaritani, è diventato una star! Perché per via di una storia che aveva, che si dice, che aveva aiutato un bisognoso. Sì, il buon Samaritano. E questa cosa lasciano tutti impressionati, no? Sì. E allora hanno scritto anche un libro che si chiama Il Vangelo. Sì. Che ha avuto un successo, cioè un blockbuster, Vabbè, comunque dai. Guarda che stiamo facendo una cagnara pazzesca qua in corridoio con tutto. Dai, tutti andiamo via prima che arrivi Suor Dentona. Dai, che arriva col bastone. Sì, ma perché lei sai bene che fine fa. È al passo felpato, non è che la senti. Quando ti arriva alle spalle, Esatto, è così. Aia! Aia! Vedi, non l'ha sentita nessuno. Sì, io ho bastonata sì, però. E ora, bambini, tutti a casa. Sì, mamma, sì, sono quasi arrivato. No, ma c'è solo un po' di traffico. Non so, ma mica è colpa mia. Senti, il traffico è imprevedibile. Cioè, no, è prevedibile, nel senso che c'è sempre. Ma sì, mamma, l'ho mandato il fax all'assicurazione. No, la ricevuta l'ho mica tenuta. Ma c'è il fax che dice ok, no? Cioè, c'è scritto ok sul display. C'era scritto, adesso non so, non l'ho salvato. Sì, ma ce li avevo gli occhiali, ma cosa vuol dire? Vabbè, adesso ti lascio, sto guidando col telefonino. C'è il vigile. Ciao, c'è il vigile, ciao. Sì, c'è il vigile. C'è il vigile. Ma capa, ma basta con tutte ste balle a quella povera donna di tua madre. Non stai guidando e sono sei balle ancora di qui. Cortesia, sono sì, di cortesia. Esatto, questa è esattamente una bugia di cortesia. Sei qui piantato sullo spartitraffico, diglielo una volta. Ma no? Questo è un wishful thinking, no? Cioè io immagino di essere già in macchina, via da sto casino, e quindi anche la mia vita è migliore se la proietti su una cosa più bel wishful, gradevole. Un bel thinking. Invece guarda il traffico infernale. Vabbè, ma scusa, è colpa mia? Il traffico. Se siete nel traffico, prendetevela tranquilli. Magari potete guidare la mia macchina e così la risolvete. Mandate le vostre mail di protesta per la caccia a chiedoasilo@radio24.it e anche le proteste contro Matteo Caccia, perché ce ne sono anche tantissime. Mandatele qui, chiedoasilo@radio24.it.